Mine Vaganti di Federico Taddia. Buon pomeriggio da Federico Taddia, questo è Mine Vaganti, il nuovo appuntamento della domenica pomeriggio di Radio 24. Siamo in diretta dai nostri studi per accompagnarvi magari durante i vostri viaggi di ritorno in queste belle domeniche di estate, ma anche per raccontare un'Italia poco raccontata. Mine Vaganti è proprio questo, uno spazio che vogliamo dedicare a italiani imprevedibili, italiani curiosi, italiani bizzarri, italiani in grado comunque di tenere sveglia la nostra società. Sfrutteremo molto la rete, la cronaca locale, le vostre segnalazioni. In questo programma voi potete intervenire, potete farlo via SMS al 349-238-6666 oppure attraverso il numero verde l'800-24-0024. E una di queste mine vaganti è qua con me in studio. Do il benvenuto a Riccardo Finelli, a 38 anni e di Modena. Lavora nell'ufficio stampa di una importante banca dell'Emilia-Romagna, ma si è preso 2 settimane di ferie. Ha preso il suo scooter, un 125, e attraverso questo scooter ha ripercorso il viaggio che fece 150 anni fa Giuseppe Garibaldi. Ciao Riccardo, benvenuto a Mine Vaganti. Ciao Federico, grazie. Hai voluto riscrivere la storia a tuo modo? No, assolutamente. Io sono un giornalista e non uno storico. Non c'è nessuna pretesa di riscrizione storiografica, ci mancherebbe altro. Solo il piacere di andare in giro 15 giorni con lo scooter. Quindi si può riraccontare la storia d'Italia andando ai 40 all'ora? È un po' stata questa la tua missione? Beh, si può raccontare forse solo andando ai 40 all'ora, se vuoi capire certe cose. Ma perché hai voluto fare questo viaggio? Ma guarda, intanto c'è un anniversario quest'anno, che sono i 150 anni non tanto dell'Unità d'Italia quanto della Spedizione dei Mille, che poi generò l'Unità d'Italia. Poi ho cercato di unire 3 passioni, che sono: una, la passione per la storia; 2, la passione per la scrittura; e 3, la passione per il mio scooter, quello scooter che mi fa andare ai 40 all'ora sulle strade dell'Italia, anche un po' dimenticate. Ecco, leggevo nel libro, perché c'è anche un libro 150 anni dopo, si intitola, sta uscendo in questi giorni, Incontri Editrice, con una piccola casa editrice di Sassuolo, siamo in provincia di Modena, che quando hai detto al tuo meccanico che con quello scooter avresti voluto fare l'itinerario di Garibaldi, quanti chilometri? Beh, 1299, partendo da Marsala, arrivando fino a dopo il Volturno, ecco. Tante curiosità in questo viaggio, tanti incontri, ne parleremo fra pochissimo, ma aspettiamo anche i vostri viaggi. Se avete ripercorso degli itinerari sulle orme di qualcuno o di qualcosa, ci sono viaggi mitici dove si vanno a ricercare o le proprie origini o le origini dei propri miti, viaggi che avete fatto o viaggi che magari sognate di fare. Siamo qua per ascoltarvi in diretta 800-24-0024 oppure 349-238-6666 per farlo via SMS. Ma le mine vaganti non sono solo in Italia, stiamo infatti per andare in Israele e lo facciamo ascoltando prima queste voci. Sono voci di bambini, sono voci di una scuola particolare, una scuola che si trova tra Gerusalemme e Gerico, sulla via del Buon Samaritano. Una scuola che non c'era, ma che è stata costruita da un gruppo di italiani che sono andati là e l'hanno costruita utilizzando dei vecchi pneumatici d'auto. E questo gruppo di italiani in questo momento si trova là nuovamente, perché la prima scuola è stata terminata, ma stanno per avviare un'altra e una nuova impresa. Do il benvenuto in diretta da Gerusalemme a Diego Toriani. Ciao Diego. Ciao Federico. Ciao, buon pomeriggio. Grazie. Quindi, cioè, voi avete costruito una scuola utilizzando vecchi pneumatici? Allora, la storia inizia praticamente l'anno scorso. Sì? Il merito è tutto di una piccola onlus del Sud Milano, che è Vento di Terra. E Vento di Terra ha avuto l'ardire di ascoltare 5 architetti un po' matti. E quando appunto la onlus ha chiesto questa scuola, noi gli abbiamo proposto facciamola con dei pneumatici usati. Perfetto. Praticamente questa scuola è una scuola per dei beduini, mezzo al deserto, e in queste aree non è possibile costruire con dei metodi tradizionali, perché le normative israeliane impongono che tutti gli edifici siano temporanei. Quindi beduini, siete abusivi? Beh, diciamo che abbiamo fatto un abuso in grande stile, sì, mettiamola così. Okay. In realtà cosa succede? Che tutti i beduini vivono lì, c'è un sacco di villaggi lungo queste strade, ci sono circa 2000 beduini che vivono in quell'area e tutti vivono in baracche di lamiera e legno. Quando però ci hanno chiesto, appunto, hanno chiesto a Mezzo di Terra di costruire una scuola per 200 bambini, ci siamo subito posti il problema di creare qualcosa che però fosse, insomma, non si scaldasse come un forno durante l'estate e non fosse gelido durante l'inverno. E allora l'idea delle gomme. Le gomme si trovano un po' ovunque qua in Palestina, le abbiamo raccolte, i beduini le hanno raccolte un po' ovunque e riempiendole di terra una sopra l'altra siamo riusciti a costruire i muri che hanno permesso di reggere appunto questo tetto in legno e lamiera isolata e lasciare sempre delle finestre che permettessero una ventilazione naturale. Ma adesso, Diego, scusa, era una tecnica che avevate già sperimentato? Allora, questa tecnica nasce nel New Mexico, sono degli architetti guidati da Michael Reynolds, che è appunto un architetto che ha sperimentato tutta una serie di ricicli di materiali di riuso, quindi le lattine, le bottiglie e anche i pneumatici, e hanno realizzato una serie di esempi che si chiamano Earthship, navi di terra, fatte appunto con le gomme. Però ecco, noi abbiamo preso questo metodo e l'abbiamo un po' reinterpretato, perché lui ha realizzato delle case sostenibili e noi abbiamo provato a fare una scuola sostenibile. E comunque con ottimi risultati. Intanto diamo il sito www.scuoladigomme.org per chi volesse conoscere meglio il progetto. In questi giorni siete lì però per un altro motivo. È sempre una scuola, avete abbandonato i pneumatici e state utilizzando un altro materiale, giusto? Esattamente, siccome la sfida, insomma, le sfide qua ce ne sono ogni giorno, un'altra comunità ha chiesto a Vento di Terra proprio di ristrutturare questa volta una scuola esistente, che è sempre fatta in lamiera e ferro, e quindi quello che abbiamo proposto questa volta è di lavorare con la paglia e il bambù, e quindi lasciamo la lamiera esistente in modo che, insomma, non venga modificato il volume della scuola esistente, e all'interno abbiamo creato una parete di 20 centimetri di paglia e terra rivestita di bambù, che diventa un ottimo isolante. Uh-huh. E all'esterno, anche per dare una nuova immagine alla scuola, abbiamo ricoperto parte delle pareti con dei pannelli di bambù apribili, e quindi in qualsiasi momento uno può vedere quello che c'era prima e quello che invece c'è stato dopo. Perfetto, quindi insomma anche qui questo abuso tra virgolette, però siete riusciti a, cioè l'idea è quella di farlo in maniera integrata col territorio e per il bene di questi bambini alla fine, che insomma il lavoro è giustamente pensato per loro. Grazie davvero Diego, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo team. Terminerete entro quanto questo lavoro? Allora, io mi fermo qua ancora una settimana e poi invece c'è un nostro caro amico spagnolo, Alberto, che continuerà il lavoro fino a fine agosto, quando poi dovremo aver terminato i lavori, se no tutta la scuola non può iniziare, quindi è indispensabile finire entro settembre. Ricordiamo scuoladigomme.org oppure ventoditerra.org è il sito ufficiale della Onlus che ha avuto l'idea base di tutto questo bel progetto. Complimenti Diego, ciao! Grazie mille, ciao Federico! Mine vaganti. A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati. Per Garibaldi, viva! Garibaldi che si ferì. Garibaldi aveva un socio, si chiamava Nino Bixio, venne giù da Busto Arsizio e nei mille si arruolò per Nino Bixio. Viva Nino Bixio che si arruolò. Abbiamo disturbato Bruno Lausi col suo Garibaldi Blues come così musica introduttiva per Riccardo Finelli, la Mina Vagante, che è qua in studio con noi per raccontarci il suo viaggio mitico, il suo viaggio sulle orme di Garibaldi. Aspettiamo anche i vostri viaggi mitici sulle orme di qualcosa o di qualcuno che avete fatto o che avete intenzione di fare. 800 24 00 24 è il numero verde, oppure 349 238 6666 per farlo via SMS. Riccardo, tantissimi incontri, un po' questa è la caratteristica del viaggiare lento, perché di fatto hai viaggiato lentamente, certo, con il tuo scooter. Paradossalmente partirei dal finale, perché già lì è curioso e già da lì si capisce cosa vuol dire vivere la storia 150 anni dopo, toccando il territorio. Cosa hai visto? Beh, io arrivo a Taverna Catena, che è una frazione di Vairano Patenora, Vairano Scalo, e scopro da due ragazzi che sono proprio che stazionano sotto al monumento in cui si incontrarono il re e Garibaldi, che in realtà anche a Teano, luogo dello storico incontro, almeno sui libri di storia, celebrano la stessa ricorrenza tutti gli anni. Quindi abbiamo due paesi, Vairano Patenora e Teano, che ogni anno in due posti diversi celebrano questo incontro, perché litigano su dove avvenne veramente. Sembra, gli storici dicono che effettivamente avvenne a Vairano Patenora, però quelli di Teano giustamente non cedono, perché hanno costruito quasi la loro identità su questo. E la cosa curiosa che ho scoperto è che quest'anno questo litigio, che nasce 150 anni fa appunto e ci portiamo dietro in questo condominio Italia fino ai giorni nostri, si è trasferita anche sui campi di calcio, perché c'è stato un campionato di terza categoria agguerritissimo fra il Teano e il Vairano Patenora, dove si sono giocati la promozione in seconda queste due squadre. Quindi pensa, la rivalità e alla fine però qui ha vinto Teano. Ah, okay, sembra, perfetto, che abbia vinto Teano. L'Unità d'Italia appunto ripercorsa attraverso il tuo scooter 1299 chilometri. Non sei partito da Quarto, ma direttamente da... Vammi a trovare un servizio di linea che mi porta lo scooter da Quarto a Marsala. Ho dovuto rimediare e fare un Livorno-Trapani su un mercantile, poi partire idealmente da Marsala invece quando sono arrivato in Sicilia. Ecco, ecco, nelle tue tappe hai trovato la presenza di Garibaldi, o comunque c'è questa memoria storica solo nell'incontro delle persone, o ci sono anche proprio segni tangibili? Guarda, Federico, il panorama è sconfortante da questo punto di vista. Non c'è memoria storica. Mi è capitato in più di un'occasione, sotto a ritratti o a monumenti di Garibaldi, di sentirmi dire chi era Garibaldi, e quindi non ricordiamo, e se ricordiamo non abbiamo una memoria condivisa, perché c'è una divisione profonda fra quei pochi che ricordano, fra pro garibaldini a prescindere, e invece persone che la pensano in modo diametralmente opposto e vedono la figura di Garibaldi come una figura assolutamente nefasta per il meridione in particolare, ma per l'Italia intera comunque. E anche i monumenti a cui sono passato sotto quasi per caso, a volte, altre volte volutamente, raccontano una storia morta, perché sono monumenti nati morti, con targhe retoriche che non dicono niente rispetto a quello che è stata l'unità del nostro paese, che, mi piace ricordarlo, è un'unità tutta italica, cioè non nasce dai grandi valori, non nasce dagli ideali, libertà, égalité, fraternité, ma nasce da un viaggio, semplicemente da un viaggio. E lo so che non è bellissimo, però credo che sia la nostra identità tutto sommato, e forse varrebbe la pena ricordarla meglio, ecco. www.150annidopo.it è il tuo sito dove racconti questo viaggio, ma se tu pensavi di appunto ripercorrere questo viaggio in maniera lenta, c'è chi ha scelto di viaggiare ancora più lentamente di te. Non ha ripercorso l'itinerario di Garibaldi, ma in occasione dei 150 anni, sotto l'etichetta Italica 50, ha fatto un viaggio a piedi dalla Vetta d'Italia a Capo Passero. Lui è uno scrittore da diversi anni, però oltre alla penna usa anche i piedi, perché le cose a mandarle a vedere passo dopo passo. Diamo il benvenuto a Enrico Brizzi. Ciao Enrico. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come stanno i piedi? Bene, si stanno riposando per il secondo giorno dopo tre mesi di marcia inesausta, quindi molto bene in questo momento. Allora, di fronte al mare. Dove ti trovi? Sei riuscito ad arrivare al Portopalo, di Capopassero. Ma sei riuscito appunto a mantenere il ritmo e la scaletta di marcia che ti eri dato all'inizio? Sì, guarda, nel senso che avevamo, grazie a Dio, elaborato un piano abbastanza astuto, cioè quello di metterci dietro più chilometri possibile finché la stagione era fresca. Siamo partiti il 7 aprile da Predoi, il comune più a nord della Repubblica, ai piedi della Vetta d'Italia. Anzi, il primo giorno ci siamo diretti direttamente a nord, verso il confine con l'Austria, per ringraziarci gli dèi, diciamo, sì, il fato, e poi ci siamo girati e dal confine, spalle all'Austria, abbiamo iniziato a camminare giù per la Valle Aurina in direzione della Sicilia. È stata abbastanza lunga perché appunto siamo partiti il martedì dopo Pasqua e siamo arrivati due giorni fa, quindi come si intuisce non siamo andati di corsa, ecco. No, ecco, e che Italia si vede, che Italia si coglie andando così lentamente. Hai avuto tempo, immagino, per guardarti intorno? Più tempo di così muore, come si suol dire, nel senso che al ritmo di una media di una trentina di chilometri al giorno, che magari nella pianura padana sono diventati in alcune tappe 45 e qui in Sicilia con un caldo abbascinante si sono ridotti a 20-25 a seconda delle giornate, abbiamo avuto tutto il tempo di conoscere l'Italia metro per metro, almeno lungo il percorso ideale del nostro asse nord-sud. E a questo proposito voglio ringraziare, a parte i compagni di viaggio dell'associazione Francigena 21 che hanno camminato con me, soprattutto i ragazzi che si sono appassionati al nostro progetto nei mesi scorsi e hanno contribuito con dei viaggi affluenti, quindi mentre noi scendevamo verso sud ci sono stati gruppi autonomi nel numero di una ventina circa, sì, che partendo ciascuno dalla propria città, dalla propria provincia, hanno camminato o da est o da ovest per arrivare a un rendezvous con noi e camminare un altro paio di tappe con noi lungo l'itinerario principale. Adesso sono troppo numerosi per ricordarli tutti, ma sinceramente perché anche questo era bello, cioè, nel nostro cuore. Ci si poteva unire a voi per un giorno, per due giorni, per poche tappe e far parte di questa spedizione. C'è l'uomo, cioè Enrico Brizzi, e c'è anche lo scrittore, che in questo caso coincide, sempre Enrico Brizzi è, ma in quanto scrittore cos'hai colto, cos'hai raccolto e cosa diventerà questa esperienza? Ma quello che ho raccolto sono, e che mi interessava raccogliere, erano soprattutto le voci, cioè ho sentito poco fa, si parlava, mi sembra molto opportunamente, di come il nostro passato e la nostra identità siano tutt'altro che condivisi, e non è solo una questione della regione che ti trovi a attraversare in quel momento. C'è chi adora Garibaldi in Alta Italia e chi lo adora in Bassa Italia, e c'è chi lo insulta con la ferocia che si riserva a chi ha procurato un danno grave tanto al nord quanto al sud. Certo, ci sono cose, io sono di Bologna e i discorsi che posso sentire vicino a casa ce li ho fatalmente più familiari. La cosa impressionante è rendersi conto invece di come esista ancora e non sia soltanto una questione, credo, di sciovinismo, una nostalgia nelle regioni del sud, sì, non universale ma presente, per il regno delle due Sicilie, che è qualcosa che dai libri di scuola appare come, non dico il male assoluto, ma il regno della corruzione, della sopraffazione, del il passato confrontato con l'incredibile modernità dei mille, o quelli che sono stati, quelli che inizialmente erano mille, di Garibaldi, o del stile di vita imposto poi dal regno di Piemonte e Sardegna, certo, delle regioni d'Italia, dalla storia. Enrico, cambio completamente argomento, ma tu sei un appassionatissimo anche di Vasco Rossi, c'è qualche pezzo di Vasco che ti ha accompagnato in questa camminata, o comunque avete usato la musica come sostegno? Sì, la musica come sostegno, sì, nel senso che la mattina è bene partire presto e con la testa vuota e dedicarsi soprattutto a mettersi dietro almeno due terzi della tappa, e poi il pomeriggio vale aiutarsi in vari modi, con pause, con la musica, e sicuramente avere dietro una buona scorta di rock and roll ci ha aiutato nelle giornate più difficili. E qua mi stanno chiedendo come tornerai? Ma naturalmente in aereo, ho chiesto tutti se torno a piedi, ma adesso... Adesso anche non basta. Vorrei peccare di ubris. Va bene. Enrico, grazie davvero per averci portato la tua testimonianza, insomma, dopo quasi tre mesi di viaggio, eccoti lì finalmente a riposarti. Ti salutiamo con un brano che abbiamo trovato sul tuo sito, una sorta di colonna sonora che credo abbiate scelto per raccontare la vostra spedizione sulla strada da 40 giorni, anche se i giorni sono stati un po' di più, insomma, vero? Questa volta sì, okay. Comunque lo spirito è quello. Enrico Brizzi, Italica 150, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Eravate sulla strada da 40 giorni. Ogni sera dormivate sotto un tetto diverso e a volte ti sembrava di essere in cammino da tutta la vita. Il traghetto che all'inizio ti aveva condotto sulla terraferma era apparente nel ricordo dell'arca che aveva salvato gli animali della terra e la famiglia di Noè. E anche il vostro arrivo a Reims, dopo 3 settimane di marcia attraverso la terra desolata, era un evento che cominciava a sembrarti remoto, come l'epoca in cui Manasse generò Amos e Amos generò Giosia. I vostri viaggi, vi abbiamo chiesto di raccontarvi, viaggi sulle orme di qualcosa, di qualcuno. Alessandra dice: ciao Federico, mi piacerebbe rifare il viaggio di Ulisse con tutte le tappe da Troia a Itica. Si potrà comprimere una decennale odissea in 2 settimane? Auguri. Oppure Lorenzo, anche lui, dalla piana di Troia per tracciare il paesaggio delle guerre persiane e l'incursione di Alessandro Magno in mountain bike. Sono Sony 349-238-6666, se ce lo dovete raccontare via sms, oppure 800-24-00-24. Mine vaganti. Mine vaganti, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Com'è in studio Riccardo Finelli, che appunto col suo scooter ha ripercorso il viaggio di Garibaldi, e ci scrive al 349-238-6666 Antonio, che dice: io con la mia Vespa 50 10 anni fa ho fatto Milano Castel Saraceno in provincia di Potenza, e confermo, se vuoi davvero scoprire e capire l'Italia devi farla ai 40 all'ora, cosa che tu hai fatto Riccardo. Aspettiamo i vostri viaggi mitici che avete fatto, che sognate di fare sulle orme magari di qualcosa o di qualcuno. 800 24 00 24 per farlo attraverso il numero verde. Riccardo, partiamo da Marsala. Sei arrivato lì col tuo scooter e cosa hai trovato? Io mi sono partito chiedendo a un gruppo di ragazzi dell'istituto Ragioneria di Quinta Superiore di Marsala, l'istituto Garibaldi, di farmi un po' da ciceroni per la città, e con loro sono andato a vedere un po' quello che di garibaldino è rimasto a Marsala. E ad esempio c'è un monumento latrina, perché è una latrina a cielo aperto, iniziato nel 1986, inaugurato da Craxi, e mai terminato fino ad oggi, tant'è che adesso è un enorme vascone di travertino messo sul lungomare, che è diventato davvero una discarica a cielo aperto. Ho trovato un moncone al porto in cui nel 1893 fu montata una Vittoria alata, credo di marmo, sì. Poi la prima sciroccata la tirò giù e da allora c'è questo moncone a ricordare lo sbarco al porto. Ma è stato molto molto interessante parlare con questo gruppo di ragazzi, ragazzi straordinari, tutti ventenni, 18-20 anni, che quest'anno hanno fatto la maturità, e ne approfitto per fargli un in bocca al lupo per gli esami e per il futuro. È stato interessante perché mi è sembrato di vedere un po' la generazione Ryanair. A Marsala da poco tempo ci sono i voli Ryanair low cost dall'aeroporto Birgi, che è molto vicino, è l'aeroporto di Trapani, e questi ragazzi sono venuti su, sono cresciuti con la consapevolezza di poter raggiungere Londra in 2 ore e Palermo in 4, perché il regionale, il treno regionale per Palermo impiega 4 ore. Quindi sono ragazzi aperti al mondo, curiosi, sani, ma ragazzi che vivono già con un piede fuori dalla Sicilia, e quindi mi è sembrato di leggere un po' di rassegnazione verso certi problemi che ha quella terra, perché tanto loro guardano altrove già da tempo. Quindi danno per scontato che comunque andranno via da quella terra? Ci sono già, con 2 ore sei a Londra, con 4 a Palermo, sei già via dalla Sicilia, anche se continui ad abitarci. Poi c'è internet, i social network, e questo credo che sia un segnale di impoverimento però della terra, perché se vuoi cambiare quella terra servono energie nuove, servirebbero proprio quelle risorse da trattenere lì, e invece volano via. Tra l'altro è bello anche il contrasto di tu che viaggi con uno scooter, con un vecchio scooter, però poi hai scritto anche un libro di fatto col BlackBerry in diretta. Il BlackBerry è fondamentale. Hai usato molto anche Facebook proprio per tantissimo, per fare tantissimo. Comunità. Io non sono un appassionato di tecnologia, anzi ne capisco pochissimo, però il fatto di essere in contatto con il resto del mondo e con una comunità di persone ovunque tu ti trovi, attraverso Facebook ad esempio, e quindi di lasciare in post una foto, una riflessione, un commento, un'emozione, per me è una ricchezza incredibile. Il problema di queste tecnologie nuove, chiamiamole nuove, in realtà non sono nuove, è che spesso sono vuote di contenuti. A me piace che tutti le riempano di contenuti, e questo mi ha aiutato anche a costruire il libro, a confrontarmi quasi in presa diretta poi con le persone che incontravo e con gli amici che mi seguivano da casa. Nel tuo libro citi tantissime volte anche la Lega Nord, che uno dice, vabbè, sei giù Calabria, Sicilia, hai trovato tracce importanti di questo partito. Ho trovato tracce di Alberto da Giussano in Calabria, a Melito, a Scilla, in luoghi garibaldini, e credimi, ho capito molto più della Lega Nord in Calabria che in Emilia, dove invece è già una realtà fermata da tempo. Perché? Pensa che alle europee del 2009 la Lega Nord si è presentata nella circoscrizione 5, quella dove c'è dentro il Meridione e le Isole, e ha preso un bel po' di voti, addirittura in alcuni comuni è arrivata a prendere il 10%, penso a Scilla, penso a Melito. E parlando con diverse persone che ho incontrato proprio per strada, pancia profonda, Federico, pancia profonda, è emersa una riflessione amara. Votano Lega Nord perché dicono qui ormai la classe politica è talmente compromessa, c'è un voto di scambio talmente consolidato che è impossibile che con una votazione normale si generi una classe dirigente capace di cambiare. Occorre essere commissionati da Calderoli. Ecco, quindi arriva la Lega Nord, che ha un'immagine fortissima, un packaging migliore della pasta Barilla, cioè l'associano a concetti quali legalità, rigore, meritocrazia. Quindi serve un commissariamento della Lega Nord per fare piazza pulita e poi ricominciare. Io credo che sia sconfortante come ragionamento questo, però purtroppo è questo. E tu queste cose le percepivi parcheggiando il tuo scooter nelle piazzette dei paesini e ti mettevi seduto al bar e parlavi con la gente? Esattamente così, rompendo le scatole a volte, altre volte invece sono stato assalito da persone un po' curiose, perché credimi che un povero pellegrino che arriva con uno scooter scassato dicendo che sta ripercorrendo il percorso di Garibaldi, beh, insomma, genera un po' di curiosità, a volte ilarità. A volte ilarità. A volte ilarità. Guarda, rimaniamo nel campo dell'ilarità e lo facciamo grazie a Elio e le Storie Tese, che hanno riproposto in una puntata di Parla con me un inno a Garibaldi in una versione loro. La utilizziamo anche noi, così, per giocare con Giuseppe Garibaldi. Siamo goduti, sono dei geni, personalmente mi piacciono molto Elio e le Storie Tese, abbiamo rubato questa loro versione di questo strano inno a Garibaldi. Con me Riccardo Finelli, che Garibaldi l'ha vissuto per 2 settimane intere col suo scooter, tanti incontri che sono veramente la cosa bella del tuo libro 150 anni dopo, ricordiamo il titolo, incontri che ci stai narrando, persone, segni, simboli, anche imprese tra il surreale e anche a volte difficili da comprendere, credo. Ma sì, guarda, mi è capitato di passare da San Pietro Apostolo, che è un paesino sulla Sila. Ho incontrato Antonio, un poliziotto in pensione che dopo tanti anni in giro per l'Italia, una quarantina, è ritornato al paese e ha deciso di spendere la bellezza di 5.000 euro, forse qualcosa in più, per costruire davanti a casa sua un monumento che ricordasse il passaggio di Garibaldi in quel tratto, perché Garibaldi risalì da lì. Quindi è vero. Cioè, di tasca sua? Di tasca sua. Lui ha visto una pietra granitica in un campo, l'ha fatta prelevare da una ditta di costruzioni, l'ha messa lì davanti al suo giardino e ci ha fatto fare un'incisione. E dice che da qui passò Garibaldi, eccetera, eccetera, durante la spedizione dei Mille. Questo per dire che l'Italia è proprio spaccata, perché abbiamo da un lato i neoborbonici, quelli di cui parlava prima Enrico Brizzi, che vedono come il male assoluto Garibaldi e i piemontesi. Poi abbiamo anche esempi di questo tipo, persone che danno un'adesione ideale totale. Ecco, io credo che, come sempre, la verità stia un po' nel mezzo, ecco. Stavo continuando anch'io il tuo viaggio, mentre parlavi alla ricerca di altre storie, mi ero spostato un po' più a nord, a Torre Annunziata, dove hai conosciuto Anna, la Cenerentola al contrario. Chi sarebbe? Sì, guarda, è stato un incontro forse il più bello di questo viaggio, perché devi sapere che non andavo solo a parlare di storie, ma cercavo di incontrare la gente così com'era, così dov'era. Sono a Torre Annunziata, sulla sella del mio scooter, che mangio un gelato, e si presenta questa signora, avrà avuto una quarantina d'anni, con uno zainetto Invicta e dei libri in mano, che porta un po' a mo' di cabaret. E cominciamo a parlare, questa mi racconta che è rimasta disoccupata da un po' di tempo, ormai da circa un anno, e avendo una bambina di 9 anni da mantenere, si arrangia come può e come fa ad arrangiarsi. Visto che in Italia nessuno legge, lei va nei fondi di magazzino, prende per 2 lire o anche gratis tutti i libri che la gente non legge, credimi che l'Italia è piena di libri non letti, e li vende porta a porta per le strade di Torre Annunziata, attraversando dei cortili con le lenzuola stese, fermando la gente alle fermate dell'autobus, e lo fa però con una grandissima dignità e una grandissima, anche lasciamelo dire, competenza tecnica, perché poi te li sa raccontare i libri, da buona napoletana, insomma. Però tutto questo fino alle 13, perché alle 13 deve andare a prendere sua figlia a scuola, e quindi stacca. Anche questo è quello che avrebbe trovato Garibaldi 150 anni dopo, come citi tu spesso nel libri, 150 anni dopo. Mine vaganti. Mine vaganti, storie di italiani bizzarri, stravaganti, veri, che hanno cose da raccontare, storie che spesso sfuggono anche agli organi di comunicazione normali, diciamo, magari non è proprio la notizia che farebbe il giro del mondo. Noi cerchiamo di cogliere questa Italia perché ci piace raccontarla. Mine vaganti @radio24.it, il indirizzo mail, se anche voi volete segnalarvi, se vi volete proporre in quanto mine vaganti, oppure i contatti per intervenire in diretta. Stiamo parlando di viaggi mitici, prendendo spunto dal viaggio di Riccardo Finelli sulle tracce di Garibaldi, 349-238-6666 per gli sms, oppure 800-24-0024 il numero verde che ha composto Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao. Ciao, buona domenica. Da dove chiami? Chiamo da Como. Sei in viaggio? Sì, sono in viaggio, sono in macchina. Si sente. Allora Alessandra, hai fatto qualche viaggio mitico anche tu? Direi proprio di sì, siamo partiti con la moto, ci siamo armati di buona volontà e da Como siamo arrivati fino a Istanbul attraversando tutta la Grecia. È stata un'esperienza meravigliosa, abbiamo fatto 5.000 km in 17 giorni, molto vissuta, non abbiamo prenotato da nessuna parte, siamo partiti in agosto. È stata un'esperienza bellissima perché abbiamo visto dei posti che con la macchina non avremmo mai visto e proprio abbiamo vissuto l'avventura. Ci siamo fermati dove ci piaceva di più, dove ci ispirava il posto, abbiamo visto dei posti meravigliosi tipo Kalambaka con questi monasteri costruiti in cima alle montagne, delle cose meravigliose. Ma Alessandra, l'approccio era solo quello turistico, cioè la voglia di fare un viaggio particolare, o volevate ripercorrere tracce che magari avevate letto sui libri di scuola o frutto di studi o di racconti? Diciamo che io avevo il desiderio di fare un bellissimo viaggio in moto, avevo comunque il mito della Grecia, di questi posti meravigliosi, perché io sono poi appassionata di mitologia greca e quindi mi sarebbe piaciuto, cosa che poi abbiamo fatto, visitare questi posti. E niente, abbiamo preso la palla al balzo, siamo partiti un po' all'avventura, un po' con delle guide che ci siamo portati da casa. Leggevamo dove potevamo fermarci, dove c'erano dei posti particolari per andare a vedere, e così siamo andati, siamo partiti. Insomma, oggi è un po' il trionfo del viaggio a due ruote, ci piace. Grazie Alessandra per essere stato con noi, buona domenica. Giovanna da Roma, che credo sia un viaggio molto da mina vagante. Ciao Giovanna. Buongiorno Federico, mi sente? Benissimo, grazie. Complimenti, simpaticissimo, non so se riesco a rimanere in tema, comunque cercherò di essere molto breve. Proviamoci. Il mio viaggio, al di là della, ripeto, di sottolineare la questione affettiva o la questione di importanza eccetera eccetera, è soltanto, nasce da che cosa? Da una questione così di input dati dalla mamma, che diceva sempre: mamma romana, mamma romana, mamma romana, mamma romana, ha detto facciamo questo gioco, e chiaramente tramite il vicariato all'interno di Roma, con tutte le chiese, poi potevo fare dalla mamma, dalla mamma, alla mamma. Ma al di là della questione così, diciamo, affettiva, sì, praticamente io passo 200 anni di storia. Sono arrivata praticamente agli inizi dell'Ottocento. Ma che, scusa, è un viaggio che tu hai fatto archivistico nella tua testa? No, è un viaggio che ho fatto nella mia testa sui ricordi delle mie mamme, però su dopo le fonti archivistiche che sono state, insomma, ritrovate tutte quante, dai battesimi, ai matrimoni, eccetera, eccetera, eccetera. Però a prescindere dalla questione di fare 200 anni di madri romane, così, che può interessare più o meno, più che altro è il costume, la storia che si incontra, quindi con l'Unità d'Italia, con tante cose, con la questione sociale, si ritrovano, che gli posso dire, addirittura le prime parti che trovo nel centro di Roma, trovo magari delle divisioni in classi sociali, dove quello è principe, quell'altro è invece nella media borghesia e l'altro nella povertà, e il carinamente li vedo pure, per esempio, abitare loro in una situazione molto semplice, da parrucchiere, da barbiere, niente di che, da sarto, magari nello stesso posto dove stava il principe borghese, dove arriva una Paolina Bonaparte, che è una chicca, diciamo, in un certo senso storico. E così, diciamo, anche andando più avanti, li ritrovo in certe chiese che urbanamente non esistono più, oppure in certe vie topografiche che venendo l'Unità d'Italia, facendo l'altare della patria, eccetera, eccetera, magari a via dei Fori Imperiali non esistono più, perché c'è stata tutta la demolizione di case, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è un modo anche per ricostruire sicuramente la storia e rivedere con occhi diversi una città, e questo credo sia assolutamente un bel viaggio all'interno del luogo in cui si vive. Grazie davvero, Giovanna, per averci raccontato la tua esperienza. Non hai fatto un viaggio fisico, diciamo, non ti sei mossa di molto da casa, ma mi sembra un bel viaggio nel tempo e nello spazio. Ciao e buona domenica, Giovanna da Roma. Stiamo parlando di viaggi sulle orme di qualcosa o di qualcuno. Lo stiamo facendo con Riccardo Finelli. Riccardo, torniamo a Garibaldi, ma di nuovo lo rintroduciamo con un altro pezzo da colonna sonora. E attacca banda, e se una samba sia suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per l'estate di Rio. Cappello a larghe falde, sotto un poncio marron, e sotto il poncio Anita mia. Batte un corazon, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai, posso darti solo. Viva Garibaldi, non credo tu l'abbia sentito dire molto spesso nel tuo viaggio, insomma hai colto varie diatribe, varie prese di posizione, questo ce l'hai raccontato. Hai fatto anche strade mitiche, mi dicevi che... Ho percorso lungamente la statale 19 delle Calabrie, che è quella che non vedi se fai la Salerno-Reggio Calabria. Io credo che sia la Route 66 del nostro meridione, forse della nostra Italia, una strada mitica e bellissima, tra l'altro paesaggisticamente, ma che idealmente unisce culture e mondi diversissimi, parte dal Vallo di Diano e scende fino in Calabria. E lo scooter a retto? Lo scooter a retto, a parte un momento di panico che ho avuto sul Volturno quando inavvertitamente ho lasciato la chiave accesa nel quadro e mi si è scaricata la batteria alle 2 del pomeriggio. Ecco, questo a Garibaldi non sarebbe successo. Non sarebbe successo. No. Chiudiamo con un'ultima storia per terminare il tuo viaggio. Proprio lì sul Volturno, a Sant'Angelo in Formis, vicino a Capua, entro nella delegazione del comune, in un ufficio del comune, e ci sono alcune persone che stazionano. Ero entrato per chiedere informazioni, stazionano sotto un dipinto di Garibaldi enorme, un 3x2 gigantesco, al che, un po' per attaccare bottone, chiedo: ma questo qui, trovo notizie di questo signore qui a Sant'Angelo in Formis? Sant'Angelo in Formis è stato il cuore della battaglia del Volturno, quella campale. E questi si guardano negli occhi, guardano il quadro e mi chiedono: ma chi è quello? Ma chi è quello? E credo che questo sia un po' il paradigma di quel vuoto di memoria che ti dicevo prima. E, del resto, nessuno si è mai speso per rendere la nostra storia un po' più sexy, sì, la storia del nostro paese. Quindi è anche giustificato da un certo punto di vista che ci sia questa smemoratezza, però raccontiamola e raccontiamola bene. E, mi dispiace che nei 150 anni dell'Unità d'Italia ci siano solo degli appelli istituzionali che sono un po' vuoti, tutto sommato. Credo che sarebbe molto importante raccontare la storia per quello che è stata. Garibaldi è stato un massone, è vero, diciamolo, non toglie niente. E il Piemonte ha invaso uno stato sovrano che erano le due Sicilie, è vero che probabilmente era uno stato anche con delle eccellenze. Non abbiamo paura di dire queste cose, riconciliamola questa memoria, raccontiamo la storia per quello che è stata. Credo che sia l'antidoto migliore alla smemoratezza. Tu hai raccontato la tua avventura per quella che è stata, e com'è terminata? Nel senso che il giorno dopo aver completato questo viaggio stavi bene? Sono dovuto ritornare a Modena, però non in aeroplano, sempre in scooter, quindi mi sono fatto 800 km dove ho definitivamente spaccato le vertebre della schiena. E lì hai fatto il turista. E lì ho fatto un po' il turista, però sono arrivato a casa quasi strisciando, perché poi ho la mia bella età. www.150annidopo.it è il sito ufficiale, ve lo ricordo ancora, il portale di questo viaggio. Si trovano tantissime testimonianze e anche tantissime fotografie. Il libro invece uscirà a breve. Uscito la settimana scorsa e credo che da questa settimana, da lunedì, sarà in libreria. Incontri editrice, siamo a Sassuolo, in provincia di Modena. Prima di salutarci, Riccardo, ricordiamo le tue altre imprese invece, perché hai fatto prima un viaggio alla ricerca dei comuni piccoli d'Italia. Dei comuni più piccoli d'Italia, il più piccolo per regione. Anche qui c'è un sito che si chiama storiedditalia.it, che è il sito del libro, e poi le piccole isole, le micro isole, quelle lontane, che c'è di mezzo il mare, e anche qui c'è di www.cedimezzoilmare.it il libro e il sito con le foto, eccetera. E queste sono le tue ferie di solito? Queste sono le mie ferie, è un espediente straordinario per sfuggire un po' dal tran tran del travè e starsene 15 giorni in giro su uno scooter a fare i ragazzini. Quindi non lo diciamo che hai anche una moglie e tre figli? No, non diciamolo, siamo fra di noi, insomma, fra amici. Grazie davvero, Riccardo, per essere stato qua con noi. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia e bentornati a Mine Vaganti. Oggi è il primo appuntamento. Siamo qua due ore insieme in diretta. Le coordinate per farvi vivi via sms al 349-238-6666. Il numero verde è l'824-0024. Abbiamo anche una mail, minevaganti@radio24.it. In questa seconda parte del programma entreremo nella cronaca locale. La cronaca locale che tanto ci piace, ci tiene informati, tiene il polso delle realtà in cui viviamo, quindi l'importanza anche di tutti questi giornalisti di provincia che raccontano, scrivono, scavano. Ok, a volte si scivola un po' nel pettegolezzo, un po' la notizia è piccola, un po' queste pagine vanno riempite, quindi si scrive anche quello che, vabbè, in altre occasioni non scriveresti, ma noi andiamo alla raccolta un po' di questi titoli, di queste notizie, per raccontarvi un'altra Italia, un'Italia nascosta. Ho quindi selezionato un po' di notizie dalle decine di testate locali di questa settimana, ma per commentarle ho chiamato un amico, un opinionista. Lui è una delle colonne di Zelig e solitamente usa l'aspetto surreale della vita per far ridere. Noi invece lo porteremo nella dura realtà della cronaca locale. Do il benvenuto a Leonardo Manera. Ciao Leonardo. Buon pomeriggio Federico. Buon pomeriggio a te. Tu giri l'Italia per lavoro e non solo. So che tra l'altro sei un appassionato di testate locali. Là dove vai acquisti il quotidiano della zona, vero? Acquisto il quotidiano perché è un modo anche per avere qualche spunto rispetto allo spettacolo, insomma, quindi se c'è qualche notizia divertente cerco di trarne gli spunti comici. Dove ti trovi in questo momento? Adesso sono a Città di Castello, perché stasera ho uno spettacolo qui vicino a Trestina, Trestina che è un'altra cittadina vicino a Città di Castello. Io pensavo di essere solo a fare lo spettacolo, invece ho scoperto oggi pomeriggio che ci sono anche i nomadi. Oh. Quindi è una bella notizia, peraltro i nomadi si possono trovare dappertutto, se non altro per il nome, appunto, che sono loro che seguono te o tu che segui loro, e quindi farai il tuo spettacolo. Sì, no, diciamo che farò da supporter ai nomadi in qualche Canti? Modo. Dovrei cantare? Spero di no, insomma, però seguirò il loro spettacolo, che per me è una cosa assolutamente nuova, è la prima volta che li vedo dal vivo e anzi mi farò fare degli autografi. Grazie per avermi definito colonna di Zelig, perché insomma, visto il mio fisico ormai che comincia ad essere cadente, essere definito colonna è sempre una soddisfazione. Colonna restaurata, se preferisci, va bene, ok. Allora, iniziamo il nostro viaggio attraverso la cronaca locale. Io ti leggo il titolo, magari un accenno alla notizia, poi vorrei un tuo commento. E partiamo dalla Gazzetta

Andremo a sfiorare due argomenti abbastanza caldi, abbastanza scottanti. Piccanti. Sì, il tema è piccante, lo facciamo con il resto del Carlino. Il primo con la cronaca locale di Pesaro, e questo è il titolo proprio di oggi, domenica 18 luglio. Il titolo in prima pagina: spiava il marito via satellite. Temendo di essere tradita, ha nascosto un GPS nell'auto. E poi all'interno il giornalista, il cronista, narra quello che è successo. Il marito aveva un'automobile non particolarmente nuova, però inizia a sentire un rumorino in prossimità di un pneumatico, guarda anche da solo cosa sta succedendo, non capisce, quindi sceglie di andare dal meccanico, dal gommista. Il gommista smonta la gomma e trova un satellitare, e capisce quindi che la moglie, che lì c'è lo zampino della moglie che lo voleva controllare. Beh, probabilmente lì è stato contento che la macchina non avesse un guasto, diciamo. Però questo cioè, meglio era, che, tu dici conviene è più facile cambiare moglie che cambiare auto. Sì. Non c'è la rotamazione per le mogli, però. Però è la prova che siamo un paese di spioni, questo, di intercettatori. No, non vogliamo essere intercettati, però tutti siamo curiosissimi sia dalle questioni private, ma insomma anche rispetto a quello che fa il vicino di casa. Quindi abbiamo tutti questo desiderio di spiare e di sapere cosa succede all'altro. Che poi in questo caso, secondo me, è inutile, insomma, perché poi se una persona vuol tradire un'altra può essere spiato, ma se ha deciso di farlo comunque lo fa. Quindi inviterei la moglie, invece di spiare il marito, eventualmente a trovarsi un amante anche lei, ecco, e poi fare l'amore su una macchina senza nessun tipo di guasto e senza neanche il satellitare, perché dai, sei un po' da guardoni, dai, ti guardano dal satellite, ma sempre ti guardano. Ma magari è un gioco erotico, magari invece si divertiva così, chi lo sa. Si davano le coordinate durante i preliminari. Allora, mentre sull'ultima notizia, Leonardo, ti prenderai tu tutte le responsabilità di quello che dirai, sì. È sempre il resto del Carlino, in questo caso siamo a Rimini, scandalo al sole, questo è l'occhiello, il titolo: prete nudista, la diocesi apre un'indagine. Il caso è questo: i carabinieri in borghese sono in spiaggia per spiare questo sacerdote che tutti i pomeriggi andava in spiaggia, nella spiaggia però non per nudisti, e lì prendeva il sole lasciando in libertà, diciamo, tutte le parti intime. Secondo me questo prete è un genio, perché è un modo per fare proselitismo. Cioè, lo faceva per aumentare il numero di quelli interessati alla sua figura e poi indirettamente, diciamo, anche alle funzioni, perché mettiamo che una persona non sia particolarmente religiosa, non voglia andare a messa e non ci va. Invece se comincia a vedere un prete che fa nudismo sulla spiaggia, comincia a interessarsi prima alla sua persona e poi eventualmente potrebbe anche essere un modo per portarlo a seguire, diciamo, le sue funzioni. Quindi secondo me questo prete lo fa perché in fondo vuole incontrare nuove persone che si interessano anche alle questioni più alte, diciamo così. Questa è la cronaca locale di Rimini. Abbiamo giocato con le testate locali, lo abbiamo fatto con Leonardo Manera. Leonardo, comunque, io voglio andare a conoscerlo questo prete, secondo me è una persona interessante, spigliata, vivace, diciamo così. Sicuramente moderno anche, insomma, era, sì, solo un modo per così, una abbronzatura integrale. E ricordiamo, Leonardo, questa sera a Tristina? Tre, ok, perché so, per un comico andare a Tristina è proprio è una pessima partenza, esatto. Magari ci ritroviamo però in una delle prossime puntate per commentare insieme gli articoli più belli della settimana, va bene? Volentieri, Federico, e in bocca al lupo. Grazie, a ciao. Ciao. Ciao. Continuiamo a saccheggiare la cronaca locale per trovare le mine vaganti. A volte sono eroi della nostra quotidianità e a volte invece sono persone che decidono almeno una volta nella vita di fare una pazzia. E non credo di essere mai intervenuto in diretta nella mia storia radiofonica in un matrimonio, ma oggi lo facciamo, perché il titolo preso dalla cronaca locale di Aosta de La Stampa dice: nozze tra i ghiacci del Monte Bianco, gli sposi sono di Milano ma hanno deciso di, appunto, sposarsi in questo ghiacciaio, uno dei più alti d'Europa. È tutta una procedura difficilissima per arrivarci, perché insomma lui è sceso in cordata, lei in arrampicata, e lì nel ghiacciaio hanno detto il loro sì. Ora spero siano scesi, siano già al ristorante, credo e spero sia andato tutto bene, e diamo il benvenuto allo sposo anche per fare i nostri auguri, Max Perrotti. Ciao Max. Buonasera. Sei sobrio? Sì, per adesso sì, non so per quanto ancora. Ok. Allora Max, facci veramente il riassunto di quello che è successo oggi. Allora, niente, sì, ieri sera siamo andati su con degli amici, con 30 persone, tra cui pochi amici e pochi parenti. Siamo andati a dormire nel rifugio Torino Vecchio e questa mattina ci siamo svegliati e circa le 10 di mattina la mia fidanzata, che adesso è diventata moglie, americana, è partita dal rifugio Torino Nuovo e io dalla punta del Bronner, quindi dalla punta del ghiacciaio del Monte Bianco. Ci siamo incontrati a metà strada e poi insieme siamo tornati sul terrazzo del Monte Bianco, dove abbiamo col sindaco celebrato il nostro matrimonio. Ok, c'era una figura insomma istituzionale, ma anche il sindaco, di Comaia, sì. E lui vi ha permesso e concesso di fare tutto ciò, gli è piaciuto come matrimonio? Sì, lui, che poi è una lei. Ah, lei, scusami. Si chiama Fabrizia, è una persona che ci ha fatto un po' avverare questo sogno, perché per noi era un sogno essendo tutti due alpinisti, e abbiamo avuto una grossissima collaborazione da parte sia del comune che delle funivie, che delle guide di Courmayeur, è quasi impensabile, perché non avrei mai creduto tutto questo aiuto da parte di associazioni così importanti, anche perché poi il pomeriggio abbiamo regalato ai nostri ospiti un giro con le guide di Courmayeur sul ghiacciaio, per regalargli un'esperienza, quindi non solo del nostro matrimonio, ma per non dimenticare la montagna. Ecco, ma dalle tue ricerche è stato il primo matrimonio fatto su un ghiacciaio? Sì. Il primo, almeno in Italia, è stato il primo matrimonio fatto su un ghiacciaio, è stato il matrimonio più alto d'Europa, e infatti molti erano emozionati per questa cosa, persone che vivevano qua, perché essendo persone che sentono molto la montagna come me, per loro era un po' una cosa molto particolare, e quindi è stato molto bene. Poi la giornata era ed è tuttora stupenda, non poteva essere meglio, quindi abbiamo avuto una grossa fortuna anche su quello. Ecco, qui mi chiedono gli abiti, nel senso, avevate proprio vestiti da cerimonia, quindi l'abito bianco lei, elegante tu, o eravate vestiti da montagna, da alta montagna? Allora, la Lauren, che è mia moglie, aveva un abito da sposa con strascico, che è stato fatto completamente da sua madre, e quindi aveva un cappuccio in pelo per ripararsi dal freddo, un mantello in Gore-Tex e uno strascico con un materiale apposta anti-acqua. Ah, quindi proprio un abito tecnico? Un abito molto tecnico, però molto da sposa, nel senso, sì, a tutti gli effetti un abito da sposa, bianco, con tutti i vari ricami. Mentre invece io ero vestito d'alta montagna, e quando sono arrivato al ghiacciaio, quando sono arrivato sulla gradinata, sulla terrazza nel Monte Bianco, dove c'era il sindaco, mi sono un po' tipo James Bond, tolto tutto quello che va addosso, e sotto avevo l'abito elegante. Fantastico. Avresti mai immaginato nella tua vita di finire nella cronaca locale della stampa grazie al tuo matrimonio? Assolutamente no. Okay. Ce l'hai fatta, quindi due record, il matrimonio più alto e sei finito anche sul giornale. Esatto. Grazie davvero Max, a te e a tua moglie. Grazie, insomma, buon proseguimento della festa. E questa è la cronaca locale, queste sono le mine vaganti che si trovano leggendo con attenzione titoli e trafiletti, e rimaniamo in tema cronaca locale, lo facciamo con il secolo XIX di oggi, ma di fatto anche col tema dei matrimoni, perché con mine vaganti ci piace anche andare a trovare e a vedere chi si inventa, per esempio, professioni nuove o trova altri lati del proprio lavoro. Come ha fatto un fotografo? Questo è il titolo: a Savona spunta il fotografo dei divorzi. E la sua idea è proprio quella di non fare solo book fotografico per matrimoni, per cresime, per battesimi, ma anche per cerimonie o per atti di divorzio. Diamo il benvenuto al fotografo che ha avuto questa geniale idea, Marco De Franco. Ciao Marco! Ciao, buonasera a tutti. Ciao. È la tua storia, è ben raccontata sul quotidiano di oggi. Ci troviamo a Savona e sì, il giornalista è rimasto incuriosito, credo, passando davanti al tuo studio, che ha letto questa cosa, che ti offrivi per servizi fotografici in caso di divorzio. Sì, è proprio così. Io ho aperto l'attività il 6 di febbraio di quest'anno e ho avuto questa idea e l'ho lanciata sul territorio. Sta funzionando. Non magari benissimo, si spera, perché ovvio su Savona è una realtà molto piccola, ho lavorato anche su Milano, su Torino, però diciamo che mi ha fatto un immenso piacere che qualcuno l'abbia letto. Scusaci Marco, in quale momento uno dovrebbe chiamarti per fare le fotografie? Cioè c'è proprio nell'atto, nel processo che porta alla separazione e al divorzio, ci sono momenti che vanno immortalati secondo te, e quali dovrebbero essere? Ma guarda, il discorso è presto fatto. Quello che mi è successo è semplicissimo da spiegare, cioè magari difficile da comprendere per chi si separa, se si lascia in maniera brutta o cattiva. Però se una cosa è tranquilla e morbida, come avviene in tanti casi, il momento delle firme del matrimonio è un momento importante di una cerimonia e le foto di rito sono importanti. Ovviamente sì. Lì si parla di molti meno scatti. Lo scatto della firma davanti al giudice e la firma alla fine all'uscita dal tribunale. È una cosa molto semplice, dei costi anche abbastanza limitati rispetto a un matrimonio, per capirci. Cioè, quello era il quad, cioè il nocciolo del servizio, poi è solo quello. Mm-hmm. E si va a concludere un album fotografico di un matrimonio dove una storia si è conclusa e pace, cioè magari riparte in meglio sicuramente per entrambi e quindi vita nuova. Scusa, però anche quando loro escono dal tribunale, tu fai comunque sempre foto alla coppia o lì fai foto singole? No, fai le foto alla coppia o anche le foto singole, poi lì dipende dall'esigenza del cliente. Io sono a disposizione del cliente, il cliente mi richiede, io da fotografo eseguo quello che mi viene richiesto, non faccio nient'altro. E chiedi anche di sorridere? No, io sono un fotografo molto anomalo, mi ritengo. Non amo le cose statiche, perciò li prendo in posizioni naturali. Poi ovvio scelgono i divorziandi o gli sposi o chi per esso il loro scatto più bello all'interno del mio locale, vengono, scelgono e io o stampo o consegno i file. Grandioso, ma quanti ne hai già fatti, si può dire? Ma guarda, 3-4 sicuri li ho fatti, poi ne ho qualcuno in essere che però non è come il matrimonio, cioè è una cosa un po' più particolare. Comunque hai raddoppiato il business, perché adesso tu non fai solo il matrimonio, ma fai anche l'eventuale divorzio. Ma sì, faccio divorzi, faccio anche animali in studio. Animali in esterno, tutte idee mi sono venute che qualcosa portano. Ripeto, la realtà di Savona è piccola, difatti il mio obiettivo è di comunque muovermi all'interno del territorio nazionale, comunque nel nord. Ti vuoi allargare? Sì, ecco, voglio allargare. Però faccio una promessa: non è che ti presenti a fare il fotografo al matrimonio lasciando lì il biglietto da visita in cui dice che sei pronto anche per il divorzio. No, assolutamente. Lasci passare un minimo di tempo prima di riproporti. Sicuramente. Poi il mio biglietto da visita è molto neutrale. Non c'è scritto, non c'è nulla di specificato. Io faccio il fotografo a 360 gradi, gestisco l'immagine a 360 gradi e sono a disposizione di chi ha piacere a fare un matrimonio con me, il battesimo, la cresima, l'evento felice, e come l'evento triste, che poi si vede come un evento triste, ma se si giunge a quella conclusione lì è perché comunque c'è un problema. E tu vai a fotografare il problema, eccolo. Io vado a fotografare il problema, bravissimo, hai centrato il problema, gioco di parole. Marco De Franco, grazie davvero, il titolo era Dal secolo XIX di oggi, a Savona spunta il fotografo dei divorzi, un grazie anche a Elena Romanato, la collega insomma che ci ha dato al volo il numero telefonico di Marco. Mine vaganti. Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto un caffè. Non fanno notizia, però le loro storie sono belle, le loro storie fanno bene alla società. Uno di loro, una di queste mine vaganti, si chiama Paolo Massenzi, è un ex imprenditore che si è preso una pausa. Ha deciso che la sua vita deve svoltare e per farlo ha scelto le carceri come oggetto del suo cambiamento di vita, oggetto della sua missione. È partito con un camper, una jail mobile, come la chiama lui, per questo jail tour, è un giro per le carceri italiane alla ricerca di ciò che viene evaso da queste carceri, cioè ciò che viene prodotto all'interno dai carcerati nelle varie cooperative che animano la quotidianità delle galere. Diamo il benvenuto a chi ha ideato tutto ciò, Paolo Massenzi. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Buona domenica a te, ciao Paolo. Sei lì col tuo camper, che so che ieri ti ha lasciato a piedi, però l'hai già riparato, vero? Non mi ha lasciato a piedi, ha perso due marce delle quattro disponibili, però le abbiamo ritrovate subito. Ah, hai fatto il meccanico di anche, te stesso. Anche. Allora, anche Paolo, la tua è una storia particolare, tu lavoravi, di fatto lavori ancora, ma hai deciso di mettere per qualche mese la tua vita tra parentesi. Cosa è successo? È successo che a ottobre, ascoltando della vicenda di Stefano Cucchi, ho iniziato a immaginare che in carcere ci fosse qualcosa di buono anche, che non ci fosse solamente tutto quello che generalmente noi sentiamo. Quindi di conseguenza ho iniziato un viaggio attraverso l'economia carceraria. E andando alle fiere specifiche solidali, quindi Fa la cosa giusta, organizzata da Terra di Mezzo, e dopodiché ho organizzato un emporio a Terra Futura, una fiera solidale a Firenze, e ho convocato, chiamato, conosciuto le prime 20 cooperative che mi hanno dato i loro prodotti per esporli. E quindi dal grande interesse ho scelto di intraprendere questo viaggio. Quindi è un viaggio di conoscenza, ma vuoi anche creare una rete. Sono circa 200 gli istituti carcerari, se non erro, come... 205. 205, sì. E ci sono, hai contato quante cooperative o quanti laboratori, insomma, dove vengono prodotte cose all'interno di queste carceri? Ma dunque, fin qui abbiamo girato Piemonte, Lombardia e parte del Veneto, ne abbiamo incontrate oltre 25. E la stima è di circa 800-900, ma non c'è un numero preciso. E questo è il motivo del viaggio: un viaggio sul territorio, incontrando direttamente le persone, anche i detenuti che lavorano e che tutti i giorni producono cose buone. Portaci con te all'interno di questi carceri, cosa hai trovato e cosa hai raccolto fino ad ora? Pronto Paolo? Paolo è caduto nel frattempo e mentre lo ricerchiamo vi do il sito, che è www.recuperiamoci.org. È il portale che racconta questo strano viaggio, questo jail tour 2010 per la prima volta. Un cittadino qualunque ha deciso di prendersi un periodo di sosta e durante queste settimane viaggiare di carcere in carcere per incontrare le persone che producono oggetti. Sono oggetti particolari, oggetti strani, a volte sono anche servizi. Eccolo qua Paolo, ti abbiamo ripreso. Eccoci qua. No, ti stavo chiedendo, facci entrare nelle carceri, cosa hai visto, cosa hai raccolto? Allora, fin qui posso dirvi che ho incontrato vino, miele, ferro battuto, formaggio, birra biologica, caffè, cioccolato, biscotti, borse di stoffa, peraltro con tanto materiale di recupero utilizzato per produrre cose veramente belle. A Torino hanno inventato una culla fatta con le vecchie cabine del telefono. No. E quindi poi cucina, ristorazione, teatro e anche tanta fantasia. Poi c'è frutta e verdura, perché le carceri da sempre hanno una grande quantità di aziende agricole, quindi dalle colonie penali direttamente ai nuovi progetti. Quindi ho incontrato AIAB, che è l'ente certificatore delle agricolture biologiche, e con loro ho iniziato anche a censire e mappare le varie realtà. Dopodiché ci sono anche, per assurdo, in carcere vengono fatte anche le toghe a Milano. No. Per giudici. Davvero? Sì. È bellissimo questo, no? La sartoria di San Vittore produce toghe su misura. Così come accanto a tutto ciò vengono prodotte carte bollate, bomboniere, agende, c'è un mondo. Ma un poi, mondo c'è anche, e poi c'è anche insomma un filo di ironia che credo che aiuti anche un po' a sdrammatizzare. Leggevo per esempio ad Alba, siamo in provincia di Cuneo, sì, il vino si chiama Vale la Pena, così è stato... L'educatore di Alba mi ha cercato tramite Facebook e mi hanno presentato, nonché fatto assaggiare e dato, è presente sul camper, Vale la Pena, sì, il nome del loro vino, ma poi direttamente sempre nel cuneese Banda Biscotti, che opera a Fossano e a Verbania, e poi Gattabuia, che è il ristorante che c'è a Verbania, sempre dove lavorano dei detenuti in semilibertà. Poi carte bollate, o piuttosto che la linea Gatti Galeotti, linea di abbigliamento? Sì, produce maglieria e oggetti di abbigliamento, borse, borsette, e con un tessuto molto divertente, per l'appunto, con dei gatti a strisce come i Gatti Galeotti. Paolo, complimenti davvero per questa tua impresa. Le prossime tappe del tuo tour? Domani siamo a Padova, presso Altra Città, che è una cooperativa che per l'appunto produce agende ed altri oggetti di vario genere, tipo sempre in carcere a Padova. Poi saremo a Bologna, dove vengono smaltite le lavatrici, e con i cesti delle lavatrici c'è un progetto per il quale realizzeremo dei corpi illuminanti, dei lampadari, delle piantane, e dopodiché scenderemo via via fino ad arrivare appunto a Roma, dove per esempio la cooperativa Artemisia produce pelle, pelletteria, e la falegnameria che è all'interno di Rebibbia con la cooperativa Demetra produce le arnie per le api, altro grande tema, perché ci sono ben 25 istituti di pena che producono miele di altissima qualità e di prezzo assolutamente popolare. Insomma, un mondo sconosciuto però che c'è, vivo e utile, importante, che noi come Mine Vaganti abbiamo tentato di raccontare. Paolo, adesso dovrei interpretare un po' la domanda che secondo me molti ascoltatori si stanno facendo, ed è: e tu di cosa campi? Io campo in questo momento di risparmi precedenti, e poi assolutamente dell'idea di creare un emporio che vogliamo aprire il prima possibile, per creare una filiera corta, cortissima, e sulla qualcosa si farà impresa, perché tante cooperative vorrebbero avere uno spazio, spesso con mille difficoltà, e l'idea di Recuperiamoci è stata quella di creare un grande emporio, molto probabilmente a Roma, ben presto, con tutte quante le categorie merceologiche che via via vado censendo, perché per l'appunto la stima sarà di 200 articoli diversi presenti in questo emporio, che vanno dal formaggio ai biscotti, piuttosto che... Io la culla la vorrei vedere, perché è una culla appunto ottenuta da una cabina telefonica, e deve essere quantomeno particolare da così, almeno da osservare, da tenere lì, e anche se non ne hai bisogno io la comprerei. Sì. La culla è realizzata dalla Casa di Pinocchio, che è una cooperativa che sta a Torino ed è visibile anche sul loro sito, ed è stata anche premiata per la genialità e per il messaggio che porta con sé. Grazie. Quindi davvero recupero. Paolo, ricordiamo il sito www.recuperiamoci.org, da lì ci sono anche tutte le coordinate per rintracciarti e magari incontrarti durante il tour 2010. Ciao e buon viaggio. Grazie, ricordo solamente che il 28 agosto saremo a Palermo per una grande tappa. Grazie a te. Grazie. Ciao. A voi. Mine Vaganti. Mine Vaganti, andiamo verso la chiusura di questa prima puntata e mi piacerebbe ogni domenica chiudere con una mina vagante artistica, andare un po' a scavare tra i tanti artisti del nostro paese alla ricerca magari di quelli più bizzarri, magari di quelli geniali ma non ancora esplosi, non ancora scoperti. Lui sta facendo invece successo in Italia e soprattutto all'estero. Prima di presentarvelo però voglio farvi ascoltare un brano e voglio capire se siete in grado di riconoscerlo. Forse avete colto qualche sonorità, forse avete colto qualche assonanza con Per Elisa, e in effetti questo è Per Elisa, però suonata al contrario. Do il benvenuto a Maurizio Mastrini, pianista, folle, geniale, insomma mille aggettivi per lui, lui che suona, lui che compone, spartiti al contrario. Ciao Maurizio! Ciao Federico, come stai? Molto bene, buona domenica. Grazie anche a te. Allora, la cosa bella di Maurizio, io lo conosco, l'ho visto suonare, tra l'altro hai una bella personalità, suoni solo a piedi scalzi, che anche questa è una tua caratteristica. Perché ti piace il contatto con la terra, col terreno, col pavimento, anche da lì passa la musica per te, giusto? Sì, assolutamente, non solo per quello, anche per una questione tecnica, perché il suono si calibra anche con l'uso dei pedali, dunque il fatto di avere un contatto diretto con il pedale senza avere la scarpa, la suola, che comunque crea diciamo una lontananza dal pianoforte, ecco, mi facilita tantissimo. Quindi un professionista, un artista, un pianista, però un giorno si è svegliato e ha provato a suonare uno spartito al contrario e si è reso conto che si poteva fare musica. Cos'è successo in quel momento per te, Maurizio? Ma guarda, tu lo sai bene, è cambiata la mia vita. Io nasco pianista, ho dedicato una vita intera al pianoforte, poi la crisi artistica in Italia ha fatto sì che per 4-5 anni abbandonassi questa attività. Volevo riprendere, stavo cercando dei brani, erano due giorni che stavo sfogliando spartiti, libri e via dicendo, ma non riuscivo a trovare dei brani accattivanti, soprattutto per un discorso tra virgolette commerciale, perché poi i programmi devono essere fruibili, ecco, dalla gente che segue i concerti. Andai a dormire e mi sono svegliato la mattina con questo sogno, sembra una storia molto romantica ma è la realtà, lo ripeto sempre, è la realtà, Bach che mi diceva: mettiti al pianoforte, prendi il preludio numero 1 dal clavicembalo ben temperato e inizia a suonarlo dall'ultima nota verso la prima. È facile, tra l'altro, vero? Bel consiglio quello di Bach. Il consiglio è stato fantastico, l'esecuzione un po' meno, perché mi ricordo che le prime note era faticoso leggere al contrario, però quello che usciva era qualcosa di magico, e lì ho avuto proprio una scarica di adrenalina. Quando ti senti le mani sudare, ti senti sudare, e lì ho capito che in realtà era qualcosa di assolutamente particolare, di fantastico. Perché comunque tu non cambi una nota, non cambi un tempo e riesci a suonare dall'ultima alla prima nota, leggendo. Zero, io lascio completamente lo spartito inalterato. E sì, c'è qualche difficoltà nella grafica, perché nelle battute musicali si tende a mettere il battere vicino allo spezzabattute di sinistra, e dunque ci devi fare l'occhio, però io non cambio assolutamente nulla. Hai detto che non me l'hai mandato, dicendo che non è mai stato trasmesso in nessuna radio questo Volo del Calabrone. Cosa sarebbe? Allora, è il Volo del Calabrone, una parte del tema del Volo del Calabrone suonata al contrario. Ah, anche lì hai preso lo spartito e via. E ascoltiamo quello che è l'effetto. Ok. Ti sorprendi anche tu quando ti ascolti, immagino? Sì, decisamente sì. Mi sorprendo anche perché, tieni conto, questa è una registrazione di un po' di tempo fa e adesso lo suono meglio. Dunque, mi sorprendo anche per questo, perché sono sempre alla ricerca della perfezione. Ogni concerto, esco da un concerto con l'idea di aver raggiunto l'apice, poi mi rendo conto il concerto successivo che in realtà la perfezione non riesco a tenerla mai. Tra l'altro, ovvia conseguenza, tu ora componi anche all'incontrario. Sì, esatto, sì, io sto scrivendo al contrario, con questa concezione di rovesciare anche la parte armonica, e scrivo da destra verso sinistra e devo dire che stanno uscendo delle cose fantastiche. Io sto preparando adesso il terzo e il quarto CD, che usciranno a settembre, in un anno di attività al contrario, ecco, tirar fuori un 30-40 brani non è che sia semplicissimo. Direi proprio no. MaurizioMastrini.com è il sito ufficiale, tra l'altro c'è un video stupendo, il video di Il mio mondo al contrario, che vi consiglio di andare a vedere. E Maurizio, prima di salutarci però, visto che le idee non ti mancano, ti sei inventato questa cosa dei concerti estemporanei, ne hai già fatti un paio li hai in programma, di cosa si tratta? Guarda, sono delle esperienze fantastiche, e sono concerti inusuali, nel senso che domenica 11 a Fano ho suonato la mattina al sorgere del sole nel concerto dell'Alba Dorata, è venuta tantissima gente ad ascoltarmi. Adesso il 15 di settembre avrò un'altra cosa particolarissima, infatti suonerò in mezzo a una vigna, la vigna Antonelli a Montefalco, dove si produce, tra l'altro si produrrà un vino che ha una concezione di produzione al contrario, esatto, un vino che non matura e si chiamerà proprio Contrario, ma sarà bellissimo perché suonerò al tramonto in mezzo alle vigne. Uh-huh. E un'altra cosa fantastica che farò a novembre a Folgheria di Trento, farò il concerto della prima neve. Sono concerti estemporanei, dunque io mi tengo disponibile, mi chiameranno al momento che nevicherà e dunque io andrò lì con il mio pianoforte, il gran coda Fazioli, me lo posizionano in mezzo alla neve e suonerò. È impegnativo, però devi tenerti pronto per qualche giorno, perché la neve è assolutamente imprevedibile. Sì, sì, sì, è così. Allora, ma soprattutto per un fatto che suonando scalzo sulla neve, sai. Non ci avevo pensato. Rischi geloni ai piedi. Maurizio, ci salutiamo, ti ringrazio, ci salutiamo con un pezzo estrapolato dal tuo ultimo lavoro, è Profumo, e MaurizioMastrini.com. Magari comunque ci ritroviamo in una prossima puntata per raccontare quello che stai facendo, visto che insomma le idee e il concetto di Mina Vagante non ti manca, ecco. No, assolutamente, assolutamente. Ciao Maurizio. Grazie. Questo è Maurizio Mastrini e su queste note ringrazio chi mi ha aiutato a preparare la puntata, Margherita Aina, alla parte tecnica invece Filippo Aureggi e Eleonora, che era là al centralino a prendere le vostre telefonate. Spero vi sia piaciuta questa prima puntata di Mine Vaganti, che ritorna domenica prossima alle 17. Se volete farvi vivi durante la settimana, minevaganti@radio24.it, la puntata la potete riascoltare in podcast dal sito radio24.it. Ora al GR, ciao!